tempo. YouTube di Marta Cagnola. Benvenuti al meglio di RadioTube Social Village. Anche in questo periodo di festa vi teniamo compagnia con alcuni dei nostri incontri preferiti andati in onda nel corso dell'anno. Tanta musica in questa prima ora. Iniziamo da Niccolò Fabi. Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. 3 anni fa era uscito Una somma di piccole cose. Lui è veramente magico. Dopo 3 anni e mezzo esce con Tradizione e tradimento, Niccolò Fabi. L'album è uscito ieri e l'album è veramente prezioso, come tutte le cose che fa questa persona straordinaria che è Niccolò Fabi. Lo abbiamo incontrato un paio di giorni fa a Milano e questo è il risultato della nostra chiacchierata. Ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Allo stesso tempo estremamente denso, estremamente coerente, però in ogni momento teso tra due estremi. È la tua vita che è così e soprattutto non è difficile, intenso vivere così? Assolutamente sì. È assolutamente difficile. Difficile, però negli anni sto cercando di fare pace con questo aspetto, cioè che la medesima caratteristica che è responsabile di una serie di disequilibri emotivi che ho, mi rendo conto che è la stessa caratteristica che rende poi quello che scrivo così necessario, così potente da un punto di vista emotivo. Probabilmente sarebbe impossibile limitare questa emotività o ipersensibilità a certe cose a solo un aspetto. Purtroppo bisogna prendere il pacchetto completo, diciamo. Quando ci eravamo visti l'ultima volta per l'ultimo disco, c'era stato, ti ricordi, quel momento di grande emozione, di grandi riflessioni su oddio, Niccolò Fabi smette, che cosa succederà? Eri sincero? Cioè davvero avevi pensato che potesse essere chiuso un cerchio? E adesso capiamo la tua sincerità di allora? No, io lo credevo, considero che comunque sia finita una fase lì, in quel momento, e che questo per certi aspetti sia un capitolo nuovo. Mi contraddico nel senso che ritorno sui miei passi nel momento in cui io temevo, pensavo che non ci fosse più niente altro da dire. E questo lo dicevo con sincerità, perché comunque tutto quello che era successo con l'ultimo disco era talmente straordinario e anche il linguaggio usato in quell'occasione era talmente profondo che non pensavo e anche non volevo sinceramente più affrontarlo. Poi però mi sono arreso dopo un anno di divagazioni al fatto che purtroppo quel linguaggio è proprio parte della mia vita, non è parte di quello che scrivo, è talmente intrinseco, io ne sono talmente tanto intriso che è impossibile farne a meno, e che comunque poi l'unico modo per trovare una risoluzione a quei disequilibri emotivi per me è scriverne, e quindi ovviamente scrivere per me è una terapia che mi serve proprio per vivere, non per pubblicare canzoni. Una come me che va sempre a studiare i testi, a cercare di capire l'artista, il momento, nei testi, si sente un po' in imbarazzo a parlare con te che dici io rivendico il fatto di scrivere canzoni, quindi ok il testo, ma capiteli insieme. Effettivamente il rischio di fermarsi solo alle parole che scrivi è grande per come sono le tue parole. Sì, ma questo non era per togliere importanza alle parole, solamente che mi piace, ma non solo per vezzo, cioè comunque non sottolineare, però ricordare che comunque la mia ambizione è scrivere delle belle canzoni e le belle canzoni sono il risultato di un'attenzione che va distribuita fra le parole, l'espressione di quelle parole, l'interpretazione di quelle parole e l'ambientazione emotiva che tu gli crei, perché comunque sì, è vero che se tu dici scotta una penna quando scrive l'imprevisto, è una frase che comunque ha un senso a prescindere. Ho capito, però il mio senso non è solamente quello, il mio senso è che io dopo 20 secondi di quell'arpeggio di pianoforte ti porta in un momento quasi di carry on che ti fa chiudere gli occhi, quando li stai per chiudere sono definitivamente chiusi, fa scotta! Shhh! E ti svegli. Però quella è parte integrante della canzone, non è secondario, capito? Cioè è voluto, è fortemente voluto. Non hai paura, del fatto che si cerchi sempre di leggere l'attualità, la realtà, il mondo nelle tue canzoni, per il tuo vissuto, per i tuoi impegni? Quest'estate ti abbiamo seguito con Radio 24 nel tuo viaggio in Africa, andare sempre a cercare, il messaggio. Ma quello tanto, ognuno cerca quello di cui ha bisogno, ok? Quindi una rivista di gossip cercherà in una canzone, ma si è lasciato con la fidanzata, ce n'ha una nuova, che ne so, il giornale politico impegnato cercherà di sottolineare o di vedere laddove ci sono dei messaggi che gli possono essere utili per raccontare la posizione di un certo tipo di artisti nei confronti di alcune problematiche. Quindi quello è inevitabile che succeda, però dipende, a quel punto dipende dagli altri. Cioè, io già ho il mio bel da fare a piacere a me stesso, se devo iniziare a pensare pure alle varie possibili interpretazioni degli altri, mo, cioè, mi scoppia la capoccia, esplodo, quindi mi fermo a quello, anche se sono consapevole che questo avvenga. La fiducia, la gente che sa che Niccolò Fabi fa dei concerti, non ci pensa due volte, compra un biglietto di un concerto che magari conterrà le canzoni di un album che non ha ancora sentito. Quindi un bel gesto di fiducia. Scivolo sopra come considerazione, ma in realtà è la considerazione, è la madre di tutte le considerazioni per me. Cioè la percezione di questo, ma di questa stima, di questa fiducia, di questo affetto intriso con stima che mi rende comunque un pezzetto importante della vita di un gruppo di persone, senza, no? Fare qualcosa di esageratamente allargato, però è vero, è perché chi ha bisogno di un certo linguaggio nella musica, nell'arte, sa che io sono una garanzia di quel linguaggio, non ovviamente di tutti, però che quello gli può servire. Ed è, ti ripeto, la madre delle soddisfazioni, perché al di là del fatto che poi una canzone possa essere meglio riuscita, almeno loro sanno che io cercherò in tutti i modi di farla nel miglior modo possibile, quindi quello è ripeto, una dimostrazione meravigliosa, cioè che mi fa capire che ce l'ho fatta. Ultima cosa, però tu sei anche uno che fa le battute, scherza, ha una simpatia che tiene per pochi? No, perché dopo che ho scoperto che una canzone era nata immaginandosi l'incontro di Quasimodo con i Sigur Rós, ho capito che in realtà invece tu con i tuoi amici e i tuoi collaboratori. Sì, a me succede forse l'opposto di quello che normalmente le persone fanno, cioè mediamente posso dire che le persone regalano alle persone più estranee, più meno in confidenza, la parte più leggera e agli amici la parte più intensa. Io faccio esattamente l'opposto, cioè a tutti regalo la parte più intensa. E invece i miei amici sono gli unici con cui cazzeggio più facilmente, perché è un meccanismo esattamente opposto a quello che succede normalmente. Sì, per me ridere e scherzare con la persona è un atto di, per me, quasi di maggiore confidenza che quello di trattare temi in te. Cioè, perché comunque uno ci si scopre in una maniera diversa che io considero comunque speciale quella di potersi lasciare andare. Grazie Nicolò, Grazie a te, grazie. figurati. Una breve pausa per le informazioni sul traffico, poi saremo di nuovo insieme con il meglio di Radio Tube Social Village. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. RadioTube Social Village. Rieccoci al meglio di RadioTube Social Village. È il momento di riascoltare cosa ci avevano detto i Modà in occasione dell'uscita del loro ultimo disco, Testa o Croce. Guarda le luci di questa città, che va al contrario in termini d'età. Più passa il tempo e sembra meno vecchia di 100 anni fa. Ho attraversato il cuore e le sue vie, tra le stagioni e le malinconie, tra quei negozi che cambiano nome e le periferie. Guarda le luci di questa città, che sembra quasi puoi parlarci ma non ti risponderà. Allora, c'è una cosa che mi piace nella vita e sono le prime vite, le seconde vite, le terze vite, le persone che anche se cascano e si rialzano. Un'altra cosa mi piace nella vita sono le persone che fanno dei progetti insieme, le amicizie che durano, le collaborazioni che sono cementate da tanta vita. E non so cosa dire, io tanti anni fa mi sono innamorata di una band, ma io sto parlando veramente di tanti anni fa, e sono contenta di averli per la prima volta a Radio 24. Benvenuti ai Modà. Grazie. Grazie. Allora, bellissima introduzione, grazie. Non sapevamo fossi innamorata di noi. Allora, grazie. Ma io, sapete qual è la vostra canzone che io ho nel cuore? Sì. Dimmi che non hai paura. Miseria, ma allora è tanti anni che ci sono. Quando sei dico tanti anni, questi sono 15. Dico intanto. 15 anni. Dico sì, 15 sì. anni. E questo si ricollega al fatto delle tante vite, perché io mi ricordo Dimmi che non hai paura come una canzone che magari sentivamo un po' nelle radio locali, in sì, un circuito abbastanza lombardo, poi voi chiamavate come un locale che era molto noto da queste parti, e quindi prima vita. Quella fa parte della prima vita, prima sì, vita. La vita della la prima vita è quella della gavetta, quella della grande soddisfazione, della grande felicità, perché comunque si faceva qualcosa in un'età che era quella dei 20 anni, che ti faceva diventare pazzo, nel senso che era bellissimo, no? Per uno che amava, aveva il sogno di fare musica, comunque anche fatta a quei livelli era già un risultato grandioso, anche se però i risultati non c'erano, insomma la soddisfazione da un punto di vista dei risultati era un po' carente, però compensava la grande gioia, la grande felicità di riuscire a fare quella roba lì. L'età della scoperta anche. Esatto. Poi a un certo punto un successo mainstream veramente di proporzioni che probabilmente neanche voi vi sareste mai immaginati. Enorme. No. No, anzi, si è rimasti molto spiazzati, devo dire la verità. Quando sono arrivati i palcoscenici, quelli importanti, se non avessimo vissuto quella prima vita non so come ne saremmo usciti, se ne saremmo usciti indenni. Devo dire la verità, siamo arrivati quasi pronti, perché poi c'è anche la parte emotiva per la quale non sei mai pronto. Beh, ma neanche a quel successo oggi lì non pronto. Si è mai pronti, però, esatto. Perché il successo è una cosa. Beh, confrontarsi con un certo successo a 20-25 anni è diverso che farlo a 30-35. Si è più consapevoli, più responsabili, e riesci anche a vedere le cose da un'ottica vero, più matura. Vero, vero, vero. Infatti è stata una fortuna. Sì, bravo vero, Stefano, giusto, vero. Perché ti permette di affrontarlo. Anche perché in quegli anni in cui tu ascoltavi Dimmi che non hai paura, noi vedevamo tantissimi colleghi artisti che, insomma, non è che ci chiedavamo perché loro ce la facessero, però vedi, noi no, a un certo però punto altri ce la fanno, gente, e dici, diciamo, ma come funziona, esatto, allora? Però vedevamo anche poi le cadute, per cui quando a 33 anni ti ritrovi ad andare all'Ariston, poi a cantare Arriverà e a uscire con un disco come quello di Vive Romantici, da cui sono stati estratti 8 singoli, da Sono già solo alla notte, pazzesca, come un pittore, cosa, eh? Di fragole, disco di diamante, eccetera. Allora lì dici, bene, adesso è successo a noi, abbiamo 33 anni e non facciamo cazzate, perché sennò è qua veramente capitoliamo noi per terra, no? Capito? E poi adesso c'è la terza vita, quella che potenzialmente è la più interessante. La possiamo chiamare terza vita perché unisce la prima e la seconda in due cose. La prima, in fatto di felicità di fare il nostro lavoro. La seconda, nel fatto di comunque aver già conseguito una sorta di risultati che ci permettono di non ripartire per forza da zero. Il pubblico che vi aspetta c'è. Certo, ma di fare comunque un percorso dove riusciamo a far conciliare la nostra vita di tutti i giorni, quella che sentivamo che ci avevano rubato fondamentalmente, perché quei 7 anni è come se ne avessimo passati 70, perché abbiamo fatto talmente tante cose che a un certo punto ci siamo sentiti come derubati della nostra vita normale, no? Sapete perché... che quando un artista dice queste cose, a volte arrivano i messaggi in radio di quelli che dicono, vabbè, dice così, e invece è proprio vero, cioè quando il successo è così travolgente da portarti via la vita privata, a un certo punto è difficile continuare ad amarlo. Assolutamente sì, era questo il vero rischio, per cui poi io quando parlai con i ragazzi dissi, ragazzi, io sono vuoto, ho bisogno di fermarmi, perché poi la gente vede soltanto le cose belle. Coerenti. A me capita spesso, le persone che mi circondano, amici, parenti, spesso le ho viste più preoccupate di me, di noi, per determinate cose, non so, l'articolo magari non tanto a favore, questioni, cose che sono successe, vedevo una preoccupazione, dicevo, ma state tranquilli, perché le cose stanno andando abbastanza bene, nel senso, anche con, cioè, voglio dire, non abbiamo perso niente per strada. Questa terza vita serve proprio questo, a prendere tutto con un po' più di leggerezza, senza avere più gli obiettivi delle classifiche, se arrivano bene, se non arrivano, ma a fare tutto testo croce non esiste, testo se decide croce, il cuore. Anche il titolo dell'album, cioè, non è un caso proprio testo croce, ma testo croce non esiste se decide il cuore. Tornare a lavorare con il cuore, con la felicità, con la normalità, per cui poi la gente ci ha apprezzato negli anni in cui ci passavano magari solo le radio locali. Fare il nostro mestiere con il sorriso, senza aspettarci niente, avere ambizioni, perché quello bisogna sempre averlo, però insomma divertiamoci, poi quello che viene viene, tanto voglio dire, abbiamo realizzato veramente tutti i nostri sogni. Se oggi tu mi chiedi ce l'hai un sogno, il mio sogno è sì, ce l'ho un sogno, il mio sogno è poter continuare a fare la musica, questo come mestiere, ma con la passione che avevo quando ero ragazzino, e a farla conciliare con la mia vita normale. Questo è il mio sogno, perché veramente cosa posso chiedere? Se io oggi esprimessi un altro desiderio mi sentirei anche un po' una merda, perché dico, ho fatto tutto quello che potevo, ma più di così che vuoi ancora? Che ecco, lascia un po' di sogni agli altri, no? Siete d'accordo, ragazzi? D'accordissimo, sì. Sì, assolutamente. Allora, hai parlato di elogi e di critiche. I Modà hanno sempre avuto un rapporto abbastanza... non difficile, però la critica li ha a volte stroncati, a volte accarezzati, mai premiati del tutto. C'è qualche insoddisfazione nel rapporto con la critica per voi? No, devo dirti la verità, guarda, abbiamo avuto talmente soddisfazione da parte poi di quello che conta, quindi dei fan, delle persone che è ci vogliono bene. È difficile mettere d'accordo il grande successo di pubblico con ma soprattutto critici, quando sei un nazional popolare, capisci? Poi che sai, bello oggi... che lo dite con... Beh, ma cosa c'è di male in realtà? Sono una grandissima amante del pop, il pop è salute proprio. Ma certo, ma poi sai, in tutto questo frangente io credo che tu debba essere predisposto, quando fai un mestiere come il nostro, e a sopportare chi ti critica in maniera e anche a come si dice, essere contento quando ti dicono che fai delle cose buone, però non potrai mai mettere tutto tutti d'accordo, soprattutto se fai se vivi in un mondo nazional popolare come il nostro, ecco. Vi siete fermati per un attimo, avete raccolto le idee e ovviamente le voci che giravano erano di qualsiasi tipo, però allora ai giornalisti piace dire il frontman si stacca dal gruppo, a volte succede davvero ultimamente, è successo. Io ho guardato tutti i pezzi che sono usciti e la cosa del pensavamo che Checco volesse abbandonare i Modà, te l'hanno chiesta tutti? Tutti, me lo vuoi chiedere anche tu? No, ti chiedo perché te l'hanno chiesta tutti? Non lo so, perché forse questa pausa è stata più lunga delle precedenti e qualcuno magari ha nutrito qualche sospetto in più, non lo so, però io dico sempre, lo ribadirò, che è più facile che loro cambino il cantante, che io cerco altri. Ah, bella questa, noi stiamo attento. Insieme da 17 attento anni. Attento a te. E stiamo molto bene e devo dire la verità, non mi è mai passato per la testa, ribadisco un'altra volta, l'ennesima volta, che quando finiranno i Modà finirà anche la mia carriera di frontman. Se farò solo l'autore, ma non anche perché non ho mai avuto l'esigenza. Io scrivo le musiche e i testi della band, ok? E i ragazzi si occupano invece di tutta la parte di recording, insomma, nella produzione loro sono liberi di fare le loro scelte, di costruire il disco poi in studio insieme, ovviamente proponendo idee, cambiando, migliorando le canzoni quando sono da migliorare, per cui c'è un rispetto tale dei ruoli dove non c'è l'esigenza di. E poi abbiamo vissuto talmente tanti momenti difficili e belli che oggi, per come sono fatto io, che sono uno che si lega molto alle persone, ricominciare a vivere con altre al mio fianco mi girerebbe, mi sarebbero anche sulle palle. Cazzo, ma pure a me pure a me. Se poi quei momenti lì o ti sbarellano o ti legano tantissimo, però questo vuole anche dire che c'è un rapporto tra di voi solido di amicizia, sì, rispetto sì, umano, sì, sì, sì, e anche di conoscenza, perché loro hanno salvato i Modà tante volte dalle mie crisi. Le mie crisi non erano quelle voglio fare il solista, erano quelle non voglio più fare musica, cioè lasciatemi in pace, io voglio fare un'altra vita, no? E allora loro magari mi portavano un po' al mare, ma no, vieni a prendere una boccata d'aria, questo ti passa, vieni. Vedi. Sono sempre stati loro nei momenti più difficili a rimettermi in pista e a farmi credere in me stesso. E queste cose in una band vanno oltre le canzoni. Sì, se non c'è quella roba lì, le band durano poco. È per quello che durante questo periodo di pausa nessuno ha mai premuto dicendo no, dobbiamo ricominciare per forza adesso, dopo domani. Cioè, gli ho sempre detto, non sarò io mai a chiederti di fare cose che in questo momento non vuoi fare, o magari ti vuoi prendere del tempo per riposare, per trovare nuovi spunti, nuove idee, per vivere cose nuove. Quindi non sarò io quella persona, mai. Anche perché quando Checco, insomma, aveva bisogno del suo periodo di pausa, quando venne a dircelo, noi abbiamo reagito nel modo più naturale in cui uno risponde ad un amico, ad una persona a cui vuoi bene, che si sente in difficoltà e chiede aiuto. Cosa vuoi fare? Io non posso che farvi un in bocca al lupo fortissimo, perché siete delle persone che hanno dimostrato una grande coerenza, una grande energia, una grande onestà, e questo, anche se la musica per me è una delle cose più importanti della vita, forse questo viene ancora un pochino prima, perché se non c'è quello la musica da sola non basta. Io penso che si percepisca anche poi tante volte dalla musica che uno fa, l'animo, no? Siamo perbenisti? Va bene, siamo perbenisti, però si sta proprio bene tra i perbenisti. Si sta bene per bene, grazie ragazzi, grazie ai Modà. Grazie a voi, grazie. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco ancora con il meglio di Radio Tube Social Ville. Radio Tube Social Village. Bentornati al meglio di Radio Tube Social Village. Ora voglio riproporvi l'intervista a un artista al suo 45esimo anno di attività. Il futuro è troppo incerto, col passato chiuso ormai. Dal presente mi difendo. So. Ho visto costruire muri. parla, parla, parla, allora via con me. Un'altra dimensione forse c'è per sopravvivere. Vado via con me, cantando una canzone semplice da dedicare a te. Cerca di un pianeta limpido che puoi comprendere. Vado via con me in ogni direzione, perdersi per riconoscersi. Allora, avete riconosciuto sicuramente la voce, sicuramente lo stile, ma sicuramente quel sapore, quelle emozioni, quelle sensazioni. Lo sapete che io ogni tanto sono un po' nostalgica, ci sono delle voci, delle canzoni che mi sono entrate nel cuore e non se ne vanno, ma neanche, ci sarà un perché. E io sono contentissima, emozionatissima di avere per la prima volta Radio 24 e con un CD tutto nuovo, che non vi posso mostrare la radio, ma è bellissimo e coloratissimo, con il suo futuro improvviso, Gianni Togni. Bentornato. Ciao, Gianni. Beh, ti dico grazie. Bentornato, perché qualche annetto che stavi... Beh, diciamo che dal Bar del Mondo sono 4 anni, poi ho fatto uscire un disco che in realtà non era nuovo, era del 77. Ma sono quelle cose era, sempre buone. Che non era mai uscito all'epoca perché l'etichetta fallì, l'avevo inciso, il produttore era Red Canzian dei Pooh, perché all'epoca seguivo i concerti, aprivo i concerti dei Pooh. E poi c'erano tanti musicisti da Dodi Battaglia, eccetera, insomma, all'interno. Beh, era un peccato non farlo uscire. E ho ritrovato i nastri e a quel punto l'ho pubblicato. Quindi sono 3 anni, diciamo, da quel canzoni ritrovate. Doveva uscire prima il disco, però la vita è un futuro improvviso, cioè certo. Cambia sempre le carte in tavola. Guarda, mi è piaciuto moltissimo questo titolo, questo futuro improvviso, perché effettivamente, e anche in molti testi dell'album, c'è questa sensazione delle cose che arrivano e che magari tu te le aspetti in un altro modo, in un altro momento, con altri tempi, e invece no. Quel futuro immaginato è già passato e neanche è arrivato, insomma, perché ce n'è già un altro. Questa è l'idea del... Infatti apro l'album, una canzone che voglio correre senza freni, è di questo personaggio che vive da solo, che aspetta il grande amore che sicuramente arriverà. Uno dei pezzi di Futuro Improvviso si intitola Un'autostrada di storie. Sì. Quante storie hai vissuto, incontrato, raccontato? Quanti anni di carriera? Allora, se consideriamo dal mio primissimo album, avevo 17-18 anni, quindi era nel 74, poi 74-75, poi c'è stato quello del 77, e se invece consideriamo dal successo sono 39 anni, quest'altro anno fa 40 anni. Hai detto Luna, hai detto poco, allora devo chiederti di Luna, perché quest'estate ovviamente Luna è tornata in tutte le salse, anche con la versione di Jovanotti. Che impressione ti ha fatto? Io, guarda, non lo sapevo, mi sono svegliato la mattina, un amico mi manda una mail dicendo: ma hai visto il video di Luna di Jovanotti? Ho detto: ma secondo me sei sbagliato. Ha detto qualcosa di strano. Dopodiché mi manda un messaggio Lorenzo, mi dice: scusami Gianni, io e Ruby non avevamo il coraggio di dirtelo, quindi se non ti fosse piaciuta la versione poi non avremmo più pubblicato, allora ti abbiamo fatto una sorpresa, speriamo che ti piaccia. Dico: guarda, dammi il tempo di andare a sentire perché io non l'ho sentita. E allora, ovviamente, sono andato a sentire, poi l'ho richiamato, ho detto: no, va benissimo, cioè non è stato sembra... molto rispettoso, ha dato dei tocchi di modernità, ma è stato sì, è diventato estremamente... un po' più country, cioè giustamente, cioè una sua versione, come però la fa vede. Anche capire come nel cuore c'era la tua, perché sì. Altrimenti avrebbe fatto un'altra cosa. Ma pensa che la scelta Rubin sentendo tutte le canzoni sulla luna, no, dice, no, questa qui vuole. Rick Rubin, vabbè, insomma, uno che di musica la scelta figlio, lui, se ne la intende. Bello, bello. Tu cosa provi per quegli anni e per quelle canzoni? Allora, no, canzoni, grande affetto, grande... Quale hai in particolare nel cuore? Poi ti dico quale ho nel cuore io. Ma guarda, io ne ho tante, ne ho tante nel cuore. Devo dire che ho tanti ricordi, però ci sono delle canzoni, logicamente, che ricordo sempre con grande affetto, con grande anche passione. Per esempio Semplice è una canzone che ho amato tanto scriverla, perché io scrivo in brevissimo tempo, non metto molto a comporre musicalmente. Poi io faccio la demo e compongo direttamente in un finto inglese, un gramlo. Ah, il testo viene dopo? Il testo viene dopo, sì. Guarda, c'è solo un artista che scrive sui testi, che è Elton John. Però sai qual è il problema? Che cambiare un testo è più facile che cambiare una musica, ah, certo, sul testo, certo, capito? Certo. E quindi quello, io ricordo, insomma, il lavoro che ci fu per Le mie strade, che arrivava dopo un grande successo dell'album che conteneva Luna, e avevano tutti paura, insomma, che non riuscisse a bissare quel successo. Invece molti non lo sanno, ma Le mie strade e Semplice hanno venduto molto, ma molto di più di Luna e dell'album che lo conteneva. Ah, sono cose... No, invece le mie canzoni sono Per la mia infanzia, sì, Per noi innamorati, che è la mia canzone più venduta al mondo. La tua canzone più venduta al mondo, sì. Allora, ci ho visto giusto quando ero piccolina. E Siamo una cosa sola, allora, Per la mia adolescenza. Sì, Siamo una cosa sola è un'altra delle canzoni che amo molto, così come una canzone si chiama Una mia canzone dal primo album, che io suonavo in un bar nel centro della città, il pianoforte scordato ma solo per metà, che era un po' il racconto mio di quando da ragazzino andavo la domenica a suonare al Folk Studio, perché potevo suonare solo il pomeriggio perché ero minorenne. Ah, beh, incredibile. Però bastava quello per respirare l'aria, esatto, di una generazione. Beh, lì incontravo De Gregori, i Venditti. Io li vedevo come delle persone pazzesche, avevano già avuto un discreto successo. Hanno una decina d'anni abbondante più di te. Sono un po' più grandi. A un certo punto tu hai fatto altre cose e non hai più avuto quel successo mainstream, popolarissimo. Sì. Che cosa ha rappresentato per te quel momento? Ma guarda, io a un certo punto, quando ho cominciato a fare una vita assurda, cioè nel senso che mi svegliavo alle 5 del mattino a Roma, alle 9 a Milano riunione, poi prendevo un altro aereo e andavo a mangiare a Madrid, da Madrid andavo il pomeriggio a Parigi e poi andavo a cena la sera a Monaco di Baviera, mi sono reso conto che, poi ho cominciato il successo con Per noi innamorati anche in tutto il Sud America, e dovevo andare, poi sono stato in Giappone, poi cominciava il successo mondiale, io non drogandomi, non facendo una vita, certo, assurda, ma normale, sono ritmiche. Ho cominciato a pensare che non era per me. Io amo stare a comporre, andare in sala di incisione, sono appassionato del suono, mi piace sentire i dischi degli altri, mi piace leggere libri, eccetera. Invece poi mi ritrovavo con tutte lingue diverse, non capivo più dove stavo, se stavo in Spagna, stavo in Germania, stavo in Francia, stavo in Giappone, non capivo più nulla. A un certo punto ho detto, forse è meglio avere meno successo ma fare una vita diversa. Gianni, sai che io ho già comprato l'agenda del 2020, perché poi ho paura che si, sì, esauriscano il mio modello preferito, quindi già posso segnare una data? Ti devi segnare 21 marzo 2020. Okay. Sabato sera, primo giorno di primavera. Perfetto. Fa anche rima. Perfetto. Sono in onda e prendo un treno velocissimo per Roma. Perché c'è all'Auditorium Parco della Musica il mio primo concerto dopo 14 anni per festeggiare Futuro Improvviso e i 40 anni di Luna, che uscì a marzo del 1980. Mamma mia ragazzi, che meraviglia. Allora, quindi ho mischiato le due, il futuro improvviso è diventato anche un passato improvviso. Sappiatelo, segnatevi questa data se avete come me già comprato l'agenda, ma in ogni caso non ve lo dimenticate. È che la cosa strana è che noi non abbiamo ancora fatto la promozione per il concerto, ma Ticket One non so per quale motivo ha pubblicato il biglietto, la promozione sua, posti in platea sono già terminati in pochi giorni. Ma cioè, pazzesco! Sì, c'è qualcosa in platea in fondo e noi siamo anche un po', come dire, abbiamo dei problemi con gli ospiti che avremo, perché li dovremo mettere sulla balconata. Li mettiamo in piccionaia. Perché non, tutta la prima parte della platea è finita in un giorno e mezzo. Noi non ci eravamo resi conto perché pensavamo di cominciare a ottobre la promozione. C'è un altro mondo, oltre a quello che viene, come dire, pubblicizzato, c'è un altro mondo che cammina e c'è una strada diversa, forse un po' più complicata, più tortuosa, però c'è un vantaggio, non è un'autostrada e non c'è un casello da pagare quando arrivi in fondo. Grazie, mi hai davvero reso felice venendoci a trovare, grazie, grazie a Gianni Togni. Grazie a te. Mattina presto, cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, vai mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano. Come da calci ad un baraccolo e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo in due. Svegliati, c'è sempre un sogno da raggiungere, amore e forza per Andiamo a sentire cosa succede sulle nostre strade e poi torniamo per l'ultimo pezzetto di questo meglio di RadioTube Social Village. RadioTube Social Village. Ultima parte del nostro meglio di RadioTube Social Village, andiamo a riascoltare quella volta in cui ci è venuto a trovare uno dei miei cantautori preferiti. Un giorno provai a chiedermi se davvero ci vuole tanto per fare di noi qualcosa che poi potremo chiamare amore. Ogni uomo vive solitudine, anche se non lo vorrà, come neve al sole. Si scioglie tra le nuvole e non so dire di più, io non lo so, io proprio no, tu lo sai come fa il vento, ogni momento da sud da nord, tu prova a sorridere un po' forse allora questo sogno alibi del mondo sarà la fine di tutti i guai. Ci sono degli ospiti che mi rendono molto molto contenta. Non è stato facile organizzare con lui perché lui è davvero uno che fa un sacco di date in giro per l'Italia. È da tanti anni uno dei miei cantautori preferiti, di lui si dice sempre poetico, delicato, si parla sempre dell'armonia, si parla sempre anche di una certa gentilezza. Tutto vero? Benvenuto a Radio 24, a Sergio Cammariere. Oh, grazie per avermi invitato. Che è meraviglia! Un vero piacere. Allora, Sergio, è una... essere delicati, gentili, è un pregio o è un difetto? Ma tutte e due? Sì, nel mio DNA proprio c'è questo garbo, questa, forse l'ho ereditato dai miei genitori, dall'educazione, insomma. Però in fondo io mi sento un nobile guitto, ecco. Bello, bellissimo, nobile guitto. Perché sono stato anche un ragazzo di strada, cioè nel senso che quando ho lasciato Crotone, che è la mia città dove sono nato, ecco, mi sono trasferito a Firenze i primi anni per fare l'università e capitava spesso di trovarmi per esempio in Piazza della Signoria sulle gradinate di Palazzo Vecchio a suonare la chitarra insieme ad altre persone. Ah beh, insomma, un po' di anche un po' di musica al di là delle righe che tu sembra sempre segui con grazia. Chi mi conosce sa che ho avuto un percorso molto lungo, ecco, io sono partito da Crotone, poi ho fatto una lunghissima gavetta, ho suonato ovunque, sono stato pianista di servizio nei varietà televisivi, poi ho lavorato per il cinema, eccetera, eccetera. Poi finalmente è arrivata la prima chiamata al premio Tenco nel 97 e da lì sono cambiate un po' le cose. Poi un Sanremo che ti ha portato la popolarità. Certo, 2003, certo. Mamma mia, che roba. Cos'è stato per te nella tua vita quel momento in cui le cose... Sono cambiate perché alla fine non c'è niente da dire, uno può anche vendere dischi, fare live, però poi quando da casa, da Crotone, ti vedono al teatro Ariston, cambia qualcosa, eh? Beh sì, aspetta, c'è un telefonino perché faccio ricordare ai nostri ascoltatori la canzone che portai a Sanremo, c'ho qui una tastierina, ecco. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai, perché senza te io non vivo. e mi manca il respiro se tu te ne vai. Ecco, con questa canzone è cambiata la mia vita. Sai che mi sono trattenuta, guarda, dal cantarla con te, che ero qua che stava per venire fuori. Non è venuta fuori perché era giusto ascoltarti. È cambiata la vita, sì, cambia tanto. È stata una sorta di riscatto, perché poi il successo è arrivato a 40 anni suonati. Ecco. È il successo più bello, però lo dico sempre. Sì. È inatteso, e tra l'altro non me lo aspettavo, è una sorta di incidente della mia vita, non saprei come definirlo, però è arrivato, insomma, mettiamo un po' di musica. Dai, allora parliamo di questo disco nuovo. Io l'ho detto subito appena ti ho visto, perché La fine di tutti i guai è un gioiellino. Allora, è il tuo decimo sì. album da studio, sì. È un album con un sacco di tracce, con tante atmosfere musicali, si va dalla bossa, dal blues che è quasi un rock, dalle canzoni d'amore alle ballad, c'è tanto. Che cos'è per te La fine di tutti i guai? È l'inizio di un incipit per una nuova visione, insomma, per approcciarsi alla vita in un modo diverso, più positivo. Finiscano tutti i guai, un'utopia un po', però nello stesso tempo è di buon auspicio. Questo è un blues che dice in cosa credo. A un certo punto tu dici in Se conosci il blues, ed è un pezzo che rispetto agli altri guarda un po' dalla finestra il mondo com'è. Tu come lo vedi dalla finestra al mondo? Magari mentre suoni il pianoforte col gatto Pippo, però... Beh, la mia consuetudine è quella di vivere con il mio pianoforte. È un rapporto quotidiano, quindi registro tutti i giorni e ho migliaia di ore di improvvisazioni registrate. Quindi non disdegno il fatto di essere presente sui social, su Instagram, e mandare dei micro video di un minuto. Mi piace moltissimo questa cosa, perché appunto mi ha stupito, perché sembra un po' in attesa, invece è un'anima giocosa. Ma che sì, è la mia vita, cioè io ho deciso di fare questo, da grande volevo fare questo, sognavo di fare questo, per fortuna lo faccio, e quindi sto bene col mio gatto, il mio pianoforte, e guardo il mondo da quella stanza lì. E come lo vedi? Bello. Cioè, questa risposta è stimolante. Bellissima. Stimolante. Mi piace molto, mi piace molto, perché è un periodo in cui tutti si lamentano, però il fatto che sia stimolante è un'ottima cosa. Il successo della musica non si conta più in dischi venduti, perché ormai se ne rendono pochissimi. Si conta sì un po' nello streaming, però sono tanti fenomeni passeggeri. Il vero metro sono i live. Tu sei in tour praticamente sempre. Sì, cioè, la mia vita è questo. Cioè, ma da sempre, anche da prima di avere successo, io ho sempre suonato. Ma quanti anni sono che hai la valigia in mano? Io sono 45 anni che faccio questo mestiere. Ora ce n'ho 59, e quindi da quando avevo 14-15 anni che suono con la musica, lavoro e guadagno e campo, diciamo. La cosa fondamentale è creare un'indipendenza, cercare di fare bilancio, ecco, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, che magari hanno il sogno nel cassetto di diventare un giorno famosi, insomma, di fare la musica, l'arte. Bisogna prima di tutto trovare, sacrificarsi, ecco, trovare un modo per lavorare. Io ho fatto di tutto nella mia vita, ho fatto l'aiuto orafo, ho avuto un bar a Firenze, il bar Bogart. Beh, fantastico. Ho fatto qualsiasi cosa, ho fatto il runner per un'agenzia di assicurazioni, ho fatto qualsiasi cosa per avere la mia indipendenza, per non chiedere ai miei genitori le 100.000 lire, le 200.000 lire, all'epoca c'erano le lire, e quindi ho costruito tutto sul concetto di libertà. Per me la libertà è essenziale. Io adesso sono... discograficamente per te la libertà conta tanto. È molto, perché sono libero. Ho una piccola discografica che mi segue, non blasonata come le major, però riusciamo a fare cose. Abbiamo già prodotto 3 album, il primo io con l'orchestra da Archi, con la partecipazione di Gino Paoli, che mi ha onorato della sua presenza, il primo disco io, poi il secondo Piano, e il terzo La fine di tutti i guai. Allora, fammi dire che ci sono, hai già fatto un sacco di date importanti in teatri molto belli, ma ci sono ancora un sacco di date. Per ora posso dire che, allora, 10 gennaio Monfalcone, 31 gennaio Lecce, 1 febbraio Taranto, 9 marzo Bari, 20 marzo Roma, 15 aprile Fabriano, 6 maggio Cremona. Mica tutti possono avere così tante date fino a metà 2020. Poi ti aspettiamo a Milano, cioè, certo, ce lo infili da qualche parte. Beh, a Milano assolutamente, non si può non venire a Milano. Questo è il segno che c'è un pubblico veramente che ti aspetta sempre. Beh sì, è un pubblico che mi segue, ma io forse non li chiamo più manco fan, sono persone che mi vogliono bene, coloro che mi seguono sui social, su Facebook, su Instagram, c'è un rapporto. In fondo è dal 2000 che ho aperto le chat, sono un cantautore tecnologico e quindi chatto spesso con i miei fans, mi fanno domande sui dischi, quando uscirà il vinile, per esempio entro marzo avremo anche il vinile della fine di tutti i guai, e quindi è un rapporto che continua. In Danzando nel vento scrivi insieme a Roberto Kunstler: a tutti quelli che non credono che in fondo c'è un modo per salvarsi ancora e non cadere mai, invece c'è un modo per salvarsi ancora? Sì, ragionare con il cuore, ecco, parlare con il cuore. Sono molto d'accordo con te. Grazie a Sergio Cammariere per essere stato qui e per La fine di tutti i guai, che è davvero un piccolo gioiello. Andatelo ad ascoltare perché vale la pena. Grazie Sergio. Grazie a voi. È tutto per questo Meglio di RadioTube Social Village. Restate con noi però, perché dopo il GR delle 17 saremo ancora insieme per il meglio di RadioTube Social Network.